Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Capita fortunatamente abbastanza spesso di parlare anche di vicende positive insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un'altra piccola battaglia vinta la raccontiamo insieme all'avvocato Gioia Barbato. Ben trovata. Grazie Mirko, buongiorno a tutti. Dunque, qualche giorno fa si parlava di furti di cifre sottratte dalle carte PostePay. Qui c'è ancora Poste Italiane al centro delle vostre attenzioni, diciamo così. Sì, esatto. Adesso diciamo ci sono pervenute in sede moltissime segnalazioni di nostri soci che al momento della riscossione all'ufficio postale dei buoni fruttiferi, quei buoni che un tempo diciamo i nonni regalavano ai figli e ai nipoti, le cifre proposte sono notevolmente inferiori rispetto a quelle che risulterebbero dal calcolo effettuato utilizzando gli interessi riportati nel retro dei buoni. Quindi succedeva che ad esempio buoni di 500.000 lire, 1 milione, perché all'epoca così si faceva, insomma una trentina d'anni fa, che magari arrivavano a riscossione proprio in questo periodo, lì ci sono state brutte sorprese nel calcolo. Sì, esatto, bruttissime sorprese. Faccio un esempio, c'erano delle proposte insomma in sede di liquidazione inferiore anche di 1.000-2.000 euro, insomma delle riduzioni notevoli su quello che sarebbe stato l'importo che sarebbe dovuto essere corrisposto all'avente diritto. Quindi noi di Adico ci siamo attivati con delle lettere di diffida nei confronti di Poste Italiane, dove sostanzialmente chiediamo la liquidazione di quello che è l'importo dovuto, ovvero quello risultante dal calcolo riportato nel retro del buono, e abbiamo anche accennato ad una recente sentenza della Cassazione che ovviamente dà ragione al consumatore, poiché il buono fruttifero non è altro che un contratto stipulato, sebbene in passato, da un utente e Poste Italiane. E in questo caso, dal momento che le cifre concordate sono quelle riportate in questo contratto, che è il buono fruttifero, la somma di cui il consumatore ha diritto è quella risultante da questo calcolo. Ecco. Facciamo una misura anche per il caso, casi concreti che vi sono capitati. C'era un caso da 1 milione di lire del 1985. Quanto doveva essere 30 anni dopo? Guarda, io non ho il comunicato sotto mano, non ho il caso sotto mano, però mi ricordo che c'era una differenza notevole, una differenza di circa 3-4 mila euro se non sbaglio. Quindi parliamo insomma di cifre importanti, ecco, che un consumatore insomma aveva confidato di ricevere aspettando appunto questa riscossione per molti e molti anni, e poi queste aspettative sono state deluse in sede di riscossione. Se non ricordo male, da quelli che ho avuto anch'io la fortuna di godere qualche anno fa, sul retro c'è proprio una tabella che dice dal momento dell'emissione quanto poi si sarebbero rivalutati e quanto uno avrebbe avuto diritto al termine. Quindi uno col foglietto alla mano va all'ufficio postale, ovviamente ricalcolandola in euro e non in lire, perché all'epoca così era stata emessa, è lì che è nata la sorpresa, e il caso non è singolo a quanto ho capito. No, esatto, è proprio così. Quindi i privati, insomma questi consumatori, hanno fatto questi conteggi, quindi col foglietto alla mano hanno rispettato fedelmente quella che è la tabella stampata nel retro del buono, e in sede di liquidazione l'ufficio postale gli ha fatto un preventivo totalmente diverso. Questo perché? Perché è stato emesso poi un decreto ministeriale nel 2000 modificava unilateralmente quelli che erano i tassi di interesse dovuti. Dopodiché è intervenuta questa sentenza della Cassazione nel 2007, se non erro, che invece ha sancito che in sede di contestazione fra gli interessi dovuti dal consumatore prevalgono sempre quelli riportati nel retro del buono, poiché sono stati approvati contrattualmente dalle parti. Ecco, quindi vale quello che era stato firmato all'epoca, 30 esatto, anni fa. Perché tutte quelle modifiche sopravvenute, che poi sarebbero unilaterali e non concordate fra le parti, non possono, insomma, non sono suscettibili di accoglimento, poiché le clausole contrattuali sono sicuramente più forti di un provvedimento unilaterale. Ecco, in questi giorni avrete visto anche in televisione le Poste stanno pubblicizzando strumenti che credo siano simili, se non addirittura uguali. Esatto. Quindi bisogna stare attenti o la normativa vale, cioè vale quello che io firmo oggi e fra 30 anni non ho sorprese, oppure cosa potrebbe succedere? No, bisogna comunque, parliamo sempre che cioè, vale sempre quello che io firmo, perché comunque firmo un contratto, quindi io il mio consiglio è quello di leggere sempre accuratamente tutto ciò che viene firmato e comunque di stare sereni, nel senso che nel momento in cui si firma un contratto, come è successo 30 anni fa a questi consumatori che ci hanno segnalato questi casi, in sede di riscossione prevarranno sempre le clausole contrattuali, perché nessun provvedimento unilaterale può modificare un accordo fra le parti. E quindi buone notizie, insomma, per chi ne ha ancora magari da riscuotere degli anni 80 o degli anni 90, vale comunque la cosa, anche se sono stati emessi dopo? Sì, sì, certo, assolutamente vale, e ricordiamo che generalmente i buoni fruttiferi hanno una durata ordinaria di circa 30 anni, dopodiché dal momento della scadenza bisogna fare attenzione, perché ci sono 10 anni di tempo per la riscossione, altrimenti poi il diritto cade in prescrizione, e quindi facciamo anche questa raccomandazione a tutti i detentori dei buoni fruttiferi. Andare a scovare e scavare nelle cantine o nelle soffitte che magari sono lì depositati e nessuno lo sapeva. Esatto, succede esatto, anche proprio questo. Così. Allora ringraziamo l'Adico, l'avvocato Gioia Barbato, per il buon esito di questa vicenda, alla prossima. Grazie Mirko, buongiorno a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.